Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno cari amici, oggi parliamo di uno strano contagio, però non preoccupatevi perché non ha nulla a che fare con virus o batteri. I sintomi si manifestano con varie intensità in situazioni diverse, ma principalmente prima dopo il sonno, prima dopo i pasti, in presenza di persone noiose, basta uno sguardo e si propaga di bocca in bocca. Le statistiche dicono che la sua contagiosità è del 50%. Avete sicuramente indovinato, voglio parlarvi dello sbadiglio e direi di metterci subito alla prova, di vedere quanto è contagioso. Proviamo a fare una verifica, proviamo a sbadigliare. Bene, forse presto, lasciamoci un po' di tempo, ma controllate se le persone accanto a voi hanno sbadigliato a loro volta. Benissimo, ma proviamo anche a capire che cosa si nasconde dietro lo sbadiglio. E lo facciamo con l'aiuto del professor Piero Barbanti, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e agli ascoltatori. Primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, perché è contagioso? Lo sbadiglio è contagiosissimo, addirittura, come ha fatto bene notare lei, è contagioso a distanza, e basta anche sentirlo, non solo vederlo. Ma è contagioso perché ha una sua funzione, e sembra strano, ma lo sbadiglio è un segnale non verbale di un disagio, di una situazione sgradevole, non pericolosa, che serve a sincronizzare il comportamento. Io faccio spesso questo esempio: se siamo in una cena un po' formale, fa caldo, noi uomini, il primo che si leva la giacca dà un po' il segnale agli altri che lo possono fare altrettanto. Ebbene, lo sbadiglio è quindi la manifestazione di una lamentela, sì, base molte volte interoccettiva, cioè dal nostro interno o anche psicologica, che serve per dire agli altri: adeguiamoci. Ha quindi una funzione sociale, stranamente dirsi. Ma sbadigliare, oltre a dare questo segnale, serve anche a qualcosa d'altro. Sentiamo cosa dicono alcune ricerche. Non solo per noia, per fame o per sonno. Quando si sbadiglia è perché in realtà l'organismo avverte l'esigenza di raffreddare il cervello. A sostenerlo è uno studio condotto dai ricercatori di Andrew Gallup della Princeton University e della University of Arizona, Stati Uniti, pubblicato su Frontiers in Evolutionary Neuroscience. La ricerca è la prima a mettere in evidenza che negli esseri umani lo sbadiglio serve per abbassare la temperatura della testa grazie allo scambio termico con l'aria inspirata. Gli studiosi hanno seguito 160 persone di Tucson, Arizona, rilevando che la frequenza degli sbadigli diminuiva col caldo per accentuarsi con l'arrivo dei primi freddi. Quasi la metà dei partecipanti sbadigliava infatti frequentemente in inverno, contro meno di un quarto nel periodo estivo. Secondo i ricercatori, la spiegazione andrebbe ricercata proprio nella nuova teoria della termoregolazione e quindi nel fatto che a temperature molto elevate, ad esempio d'estate, lo sbadiglio non fornisce alcun sollievo per il cervello surriscaldato perché l'aria incamerata non è sufficientemente fresca. Tratto da Salute 24. Professor Barbanti, quindi secondo questa ricerca ci sarebbero anche le stagioni dello sbadiglio, siamo proprio nella stagione d'oro allora, essendo in inverno. Teoricamente sì, devo dire che questa teoria che viene propugnata ormai da qualche anno da diversi ricercatori non è accettata da tutti. Il primo a pensarci era stato Ippocrate, che diceva che serviva per cambiare l'aria cattiva nei polmoni e dare aria fresca al cervello. C'è anche chi sostiene che serva a svegliarci, perché lo stretching muscolare che in questa maniera facciamo è come se suonasse un po' la carica e attivasse la sostanza reticolare, che è una zona del cervello importantissima per la veglia. Una cosa è certa, lo sbadiglio è uno dei nostri pochi riflessi che non sono arrestabili. Siamo in grado di fermare un colpo di tosse, di arrestare uno starnuto, ma lo sbadiglio, che alcuni curiosi ricercatori si sono presi la briga anche di misurare, dura in media 6 secondi, non è arrestabile e è fatto apposta perché si veda. Da qui l'idea quasi comunitaria, sociale, come funzione dello sbadiglio, anche se l'idea di ossigenazione al cervello, di raffreddamento, è un'idea che comunque rimane in piedi. Sembra bizzarra, ma in effetti è... Ma professor Barbanti, sbadigliano più le donne o gli uomini? E soprattutto, se lo sbadiglia tutte queste funzioni, come mai anche gli animali sbadigliano? Che cosa c'è di diverso dallo sbadiglio del mio cane, che sbadiglia qualche volta, rispetto al mio? Luca, la differenza di sbadiglio tra uomo e donna non è stata così tanto studiata, ci sono alcune condizioni, per esempio il mal di testa, che spesso è annunciato dalla sbadiglio, che è più frequente nella donna, quindi per certi versi potrebbe forse prevalere un po' in questo senso, ma in realtà sbadigliano tutti e sbadigliano ovviamente anche i nostri neonati alla nascita con queste carini, però lo sbadiglio diventa contagioso solo da grandicelli. Questo sta a dimostrare che ci vuole qualcosa in più per contagiare o essere contagiati, cioè la maturazione di una parte imitativa del cervello. Che sbadigliano dietro contagio sono solo i macachi, gli scimpanzé e gli animali, e i nostri piccoli incominciano a farlo grosso modo in età scolare, intorno ai 6 anni. E quando ci si ammali di alcune patologie del sistema della dopamina, per esempio la schizofrenia, l'autismo, oppure soggetti con il Parkinson, si sbadiglia meno e soprattutto non si sbadiglia più a raffica o perlomeno in maniera imitativa. Cosa succede quando io vedo una persona che sbadiglia? Mi si accendono alcuni neuroni che sono molto importanti per la socializzazione, chiamati neuroni a specchio, i quali sostanzialmente indossano, tra virgolette, l'azione di chi mi sta di fronte, lo sbadiglio, mi calo nei suoi panni, capisco come si sente, capisco cosa vuole dire, comunica al meglio lui con me e io mi adeguo. Ma quindi, professore, alla fine questo sbadiglio sdoganato, in effetti è difficile resistere, io ogni tanto cerco di soffocarlo, però poi mi vengono le lacrime agli occhi, insomma si vede quando sbadiglio. Al nostro cervello piace o non piace? Lo riposa, noi abbiamo una sensazione piacevole dopo lo sbadiglio, come se ci fossimo scaricati da uno, tra virgolette, stress. Assolutamente, io credo che lo sbadiglio sarà forse socialmente riprovevole, ma è neurologicamente benedetto. In condizioni di attivazione stressante nessuno riesce a sbadigliare. Ora, ci sono situazioni a volte piuttosto strane, uno sbadiglio può preannunciare uno svenimento, può essere presente nel mal d'auto, dicevamo il mal di testa, ma nella mancanza di sonno, certamente è indicativo di quando noi stiamo mollando la tensione, e visto i tempi che corrono è senza dubbio un buon segno. Buono sbadiglio a tutti. Allora, grazie professor Barbanti, e intanto che la salutiamo aggiungiamo una curiosità: oltre a svolgere tutte queste funzioni che il professor Barbanti brillantemente ci ha raccontato, sembra che lo sbadiglio possa essere usato proprio anche come un potente antistress. Andiamo a sentire. Sbadigliare è un eccellente esercizio antistress. Fingere di sbadigliare genera automaticamente i riflessi fisiologici di rilassamento di uno sbadiglio autentico. Il principio è semplicissimo. Ogni volta che sentite la tensione interiore salire e invadere il vostro spirito, aprite la bocca e sbadigliate. Più lo fate e più in fretta ritroverete sia il rilassamento fisico sia la disponibilità dello spirito. Tratto da Quaderno d'esercizi per rimanere zen in un mondo agitato. Allora, abbiamo aperto la bocca per sbadigliare, ma apriamo la bocca anche per mangiare gli alimenti che al nostro cervello piacciono, lo tengono fresco, attivo, sveglio, pimpante. Anche lui ha i suoi gusti, insomma. Attenzione, concentrazione. Sto fermo un giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede su un motore. Devo dare Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Ma quante cose chiediamo al nostro cervello? Allora aiutiamolo un po'. E per farlo bene ci facciamo aiutare dalla dottoressa Paola Reverso, nutrizionista, presidente dell'associazione Il Me più Te, oltre che esperta del nostro Daily Lab, il laboratorio del benessere in cui ogni giorno vi invito a fare un saltino per imparare a prendervi cura di voi, della vostra salute, del vostro stare bene. Dottoressa Reverso, buongiorno. Buongiorno. Il mattino ha l'oro in bocca, anche per il nostro cervello. Con lei vorrei fare proprio una giornata tipo. Beh, se facciamo una giornata tipo dobbiamo assolutamente iniziare dall'acqua. Prima ancora di capire dove siamo girati, al mattino presto, stalbeggiando, siamo in inverno, un bel bicchiere d'acqua dobbiamo assolutamente berlo. Posso tenermelo sul comodino dalla sera prima? Direi di sì, così non diamo una sferzata all'apparato digerente con dell'acqua fredda da frigorifero. Perché l'acqua? Perché quando dormiamo noi non è che ci riposiamo sicuramente, ma il cervello lavora tantissimo e consuma energia e consuma anche acqua, ma non solo il cervello, lavorano anche altri apparati, tutto il sistema digerente, l'apparato urinario e perdiamo anche liquidi attraverso la traspirazione della pelle, la sudorazione, perché a volte di notte si suda perché magari ci copriamo un po' troppo o facciamo un sogno particolarmente agitato, infatti. E poi respiriamo. Ricordiamoci che meno male, dottoressa Reverso. Quindi dobbiamo assolutamente, la prima cosa da fare è bere. Capisco che per qualcuno può essere magari un po' difficile. No, per bere un bicchiere d'acqua, semplice come bere un bicchiere d'acqua. Dottoressa Reverso, quindi fa bene al nostro cervello, ma io vorrei occuparmi, già che siamo qua a parlare di cervello, anche del secondo cervello. E l'acqua assunta a digiuno al mattino appena svegli fa bene anche al secondo cervello. Perché? Perché dà una spintarella, il tubo digerente ormai è libero, perché per 8 ore, almeno 7-8 ore non abbiamo introdotto cibo, è libero, però appunto come dicevo prima ha lavorato e dobbiamo eliminare tutto quello che si è formato durante la notte. Quindi bevendo un bicchiere d'acqua al mattino, appena sveglia, temperatura ambiente, noi salviamo, aiutiamo sia il cervello, quello in alto, che il cervello, quello in basso. Due piccioni con una fava, insomma. Direi proprio di sì. E poi possiamo subito passare alla seconda fase della nostra giornata, che è quella di concederci una colazione. Perché a questo cervello, parlo del cervello che sta in alto, piacciono gli zuccheri. Si dice sempre così, ma vogliamo capire quale tipo di zuccheri gli piacciono? Beh, gli piacciono gli zuccheri cosiddetti lenti, quindi che vengono assorbiti lentamente, una bella fetta di pane integrale, magari anche con un velo di burro e un po' di marmellata, o se preferiamo una colazione salata, mangiamoci un toast. Perché salato o dolce, ciascuno può scegliere quello che vuole, non ci sono anche delle indicazioni su questo, dottoressa? No, se non ci sono problemi, se la persona è in buona salute, nel senso che non soffre di ipertensione, per cui c'è stata una restrizione nel consumo dei salumi, dei formaggi, perché no? Molte persone gradiscono un toast al mattino perché amano la colazione salata, lo facciamo magari appunto con il pane integrale. Sono zuccheri lenti, in questo modo diamo al cervello un carburante con il ritmo giusto, visto che dobbiamo mantenerci il ritmo, altrimenti possiamo usare dei cereali, però i cereali per la colazione dobbiamo sceglierli, quindi prendiamo cereali semplici, fiocchi d'avena, fiocchi di riso, fiocchi di farro, di kamut e poi magari aggiungiamo delle noci, delle nocciole, perché ricordiamoci che il cervello usa sì gli zuccheri come carburante, ma quando pensa usa i grassi. Ecco, i famosi grassi, che possono diventare anche amici, perché le vitamine liposolubili, così si chiamano, senza grassi dove vanno? Infatti le vitamine liposolubili non possono essere assorbiti se non ci sono dei grassi. Noi italiani comunque amiamo fare colazione col classico cappuccino, quindi anche se abbiamo bisogno del nostro caffè che ci risveglia, che ci rende più tonici, spesso beviamo il latte. E quindi il latte, oltre a contenere delle vitamine, contenendo anche dei grassi, li veicola. Però come dicevo prima, se noi ai cereali, ai nostri cereali aggiungiamo anche i grassi contenuti nella frutta secca, perché ci sono persone che magari non amano il latte oppure non lo possono bere, questi grassi aiutano ad assorbire le vitamine liposolubili. Quindi per quello che dicevo, noci, nocciole, mandorle, ma anche semi di girasole, semi di lino. Dottoressa Reverso, attenzione, concentrazione e ritmo, ci facciamo aiutare dalle vitamine? Le vitamine sono importantissime perché ogni vitamina, noi sappiamo che le vitamine sono tante, ogni vitamina ha un suo aiuto, una sua funzione. Per esempio la vitamina B1 è energia per il cervello, tutte le vitamine del gruppo B sono importanti perché entrano nei processi metabolici, cioè il glucosio non può essere trasformato in energia senza le vitamine del gruppo B, così come non si possono formare le proteine. Però le vitamine, per esempio la vitamina B2 rende il cervello ragionevole. Quindi, ma io ho bisogno che lei mi racconti dove trovo la vitamina B1 e dove trovo la vitamina B2, allora, per essere attento e ragionevole. Le vitamine del gruppo B si trovano essenzialmente nei prodotti di origine animale, ecco perché ritorniamo al nostro toast oppure al nostro latte. E quelle della vitamina B2 che mi piace molto? Quelle della vitamina B1 e la vitamina B2, tutte le vitamine del gruppo B sono negli alimenti di origine animale, quindi non abbiamo nessun problema se noi beviamo un po' di latte, mangiamo un pezzettino di formaggio, un pezzetto di salume, però ricordiamoci che le vitamine sono contenute anche nel lievito di birra. E il lievito, a parte che il lievito di birra viene usato per fare il pane, però è venduto anche in scaglie, quindi noi possiamo, oppure in bustine, quindi noi possiamo aggiungerlo alla nostra acqua del mattino. Ah, quello è vero che fa bene anche alla pelle? Sì, tutte le vitamine, la pelle è un organo che si rigenera molto in fretta, quindi come tutti gli organi che si rigenerano in fretta hanno bisogno, quindi che hanno un lavoro delle nostre cellule rapido e veloce, necessitano di tante vitamine, per cui le vitamine del gruppo B intervenendo nei processi metabolici si consumano, diciamo così, quindi va bene. Poi come dicevo prima anche i semi di girasole contengono le vitamine del gruppo B. Basta aggiungerli alla nostra colazione mattutina. Sì, oppure sgranocchiarli. A volte magari abbiamo un pochino fretta al mattino, no? La maggior parte delle volte. E questi possiamo, mentre ci prepariamo, prendere l'abitudine, soprattutto per le persone che magari non amano fare un'abbondante colazione al mattino, sgranocchiare delle noci, delle mandorle, dei semi di girasole. Le noci e le mandorle le conosciamo tutte, sappiamo bene il loro sapore, ma i semi di girasole di che cosa sanno? I semi di girasole sanno di nocciolina. Fantastico, e sono calorici? Contengono dei grassi, però sono tutti grassi vegetali che vengono proprio utilizzati anche dal nostro cervello per pensare. Il cervello è ricchissimo di membrane cellulari, i grassi entrano nella composizione delle membrane cellulari del rivestimento. Perché il cervello è ricco di membrane cellulari? Perché le sue cellule sono molto particolari, hanno dei prolungamenti. E tutti questi prolungamenti sono a loro volta rivestiti da membrane cellulari e l'impulso nervoso passa attraverso questi prolungamenti. Quindi sgranocchiamo nocciole, semi di girasole, aggiungiamo il lievito nella nostra acqua che teniamo, un bel bicchierino d'acqua accanto al nostro comodino, diamo energia al cervello proprio attraverso le vitamine. Ce ne sono altre amiche del nostro cervello, dottoressa Reverso? C'è la vitamina B5 che la troviamo abbondante nel gorgonzola, quindi magari a pranzo possiamo concederci, adesso che siamo appunto in inverno, una polenta con una bella fetta di gorgonzola. E noi diciamo, lo facciamo per il nostro cervello, non è gola, ma lo facciamo solo per il nostro cervello, non ci crederà nessuno, ma intanto una buona giustificazione ce l'abbiamo. Direi proprio di sì. E poi per esempio possiamo anche, ricordiamoci che anche i legumi sono ricchi di vitamine. Dottoressa Reverso, ha parlato di legumi, ha parlato di gorgonzolo, una pausa pranzo direi piuttosto ricca. D'altra parte, proprio in inverno abbiamo bisogno di qualche cosa che ci riscalda e ci gratifica. la giornata è ancora lunga e spesso dopo una giornata di lavoro abbiamo poi chi ha le faccende domestiche, chi magari invece trascorre un'ora in palestra, quindi prepariamoci per questo. E se non vogliamo fare un pranzo abbondante, possiamo anche mangiare delle proteine animali a pranzo, del pesce, magari scegliendo i pesci più ricchi di acidi grassi omega 3, come il salmone, l'aringa oppure il pesce, tutto il nostro pesce azzurro, sardine, acciughe, sgombri, oppure possiamo mangiare delle carni bianche, delle carni rosse con accompagnate delle verdure e anche lì una bella fetta di pane. Se abbiamo fatto un pranzo leggero proprio per evitare magari quella sonnolenza che può capitare subito dopo. Ecco, io la fermo qui prima della sonnolenza, perché così diamo delle indicazioni a chi tra poco si siederà a tavola e dovrà combattere con quella voglia di stendersi e pochi lo potranno fare. Adesso noi andiamo a sentire i mercati, poi il meteo e poi dopo di nuovo insieme con la dottoressa Reverso. Essere e benessere. Lo sai perché la gente si arrovella e dice che la vita non è bella? Perché gli tocca de campate corsa, è stretta in una morsa, non c'ha più il tempo per la pennichella. Ossia quella mezz'ora di dormita che se faceva nonno, la quale dentro il treno della vita è il supplemento rapido del sonno. La pennichella classica ha un suo cerimoniale, bisogna stare le regole perché se no non vale. Questa benedetta pennichella tutti amerebbero farla, molti, io per prima, eppure quando si lavora, dottoressa Reverso, viene l'abbiocco ma non abbiamo la poltrona per schiacciare un pisolino. E allora che cosa si può fare? Beh, intanto si possono sgranocchiare delle mandorle o mangiare una banana. Veramente? Anti-abbiocco? Post-prandiale? Perché? Perché abbiamo bisogno di magnesio, di potassio, abbiamo bisogno di quei minerali che attivano un pochettino sia il sistema nervoso che il sistema muscolare. Perché cosa succede? Quando noi abbiamo mangiato un pasto abbondante oppure abbiamo dormito poco la notte prima e quindi basta anche una lieve digestione, che il sangue viene richiamato dallo stomaco, dall'apparato digerente, per cui ne fluisce un pochino meno, un pochino più lentamente a livello dei muscoli e del cervello. Il magnesio che cosa fa? Stimola tutta la contrazione muscolare ma anche il passaggio degli impulsi nervosi, quindi ci dà un po' una sferzatina. Quindi se uno non può fare il pisolino, deve stare sveglio e sa che insomma invece dopo pranzo gli viene un po' da chiudere l'occhio, finisca il suo pranzo con una banana. Questo possiamo dare come consiglio? Sì, la banana contiene potassio ma contiene anche magnesio e poi possiamo magari sgranocchiare appunto delle noci, delle mandorle, ancora i semi oleosi, la frutta secca ci vengono in aiuto praticamente per tutto il giorno. Dottoressa Reverso, la giornata insomma passa, ora dopo ora ci facciamo magari una merendina. A proposito, la merenda serve? Piace al cervello fare merenda, quella del pomeriggio, meglio un tè o una mela? Se l'abbiamo usato tanto, assolutamente meglio una mela, perché comunque la mela contiene degli zuccheri, tra l'altro la mela contenendo anche della pectina, ricordiamoci che le fibre rallentano l'assorbimento degli zuccheri, quindi se noi mangiamo tutti i tipi di frutta, pur avendo magari degli zuccheri che possono sembrare rapidi come glucosa o fruttosa, in realtà poi sono lenti perché le fibre rallentano, quindi direi che una mela va benissimo. Potremmo anche mangiare delle prugne o delle castagne. O delle castagne, che questa è proprio la stagione. Eh sì, questa è la stagione, però soprattutto se prevediamo appunto di andare a fare magari un pochino di attività fisica prima di cena, non appesantiscono, si mangiano facilmente, piacevolmente, e ricordiamoci di bere anche durante la giornata, di non limitarci solo a quel bicchiere. Al nostro bicchierino del mattino. Dottoressa Reverso, e ritorniamo a casa. E, insomma, questo cervello ha lavorato tutto il giorno, magari ci siamo anche dimenticati, lamentati di lui perché non ci siamo ricordati alcune cose, ed ecco che al momento di andare a letto ci vengono in mente tutti i pensieri, tutte le cose che dobbiamo fare, quelle che non abbiamo fatto. Insomma, il cervello non si spegne, forse l'abbiamo allenato troppo. Sì, forse l'abbiamo stancato un po'. Intanto la sera è importante che noi equilibriamo il pasto del mezzogiorno. Se abbiamo mangiato proteine a pranzo, la sera mangiamoci un bel piatto di pasta. Al cervello la pasta piace molto, va molto bene. È un pastarolo il cervello, un po' come noi. Sì, sì, assolutamente sì. Ricordiamoci anche di non mangiare troppo tardi. Dovrebbe passare almeno un'ora, un'ora e mezza prima di andare a dormire. E poi, per calmare il nostro cervello, per prepararci al sonno, usiamo il cioccolato fondente. Dai, questa mi piace, goduriosa. Il cioccolato fondente, di quello amaro, prima di andare a dormire, ma quanto prima? Una mezz'oretta prima, perché da una parte dà una svegliata al cervello, gli dà una sferzatina, però poi contiene delle sostanze, soprattutto se noi il quadratino di cioccolato fondente... Sì, non la tavoletta, lei già ci, con il quadratino ci riduce, no? Perché non la tavoletta di cioccolato. Perché deve essere una degustazione, no? Poi magari mangiamo anche due o tre, insomma, se non abbiamo problemi di linea possiamo anche esagerare un pochino. Però la cosa importante è che noi lo lasciamo in bocca che si sciolga piano piano, lentamente, perché il cioccolato contiene tantissime sostanze che possono aiutare, ma soprattutto se abbiamo proprio una mente troppo sveglia ancora, quando invece dovremmo prepararci al sonno, il proprio latte del tenere in bocca questa tavoletta, il piacere che comunica, il sapore che ha, ci rilassa. Quindi cioccolato batte camomilla 1-0? Direi proprio di sì. Dottoressa Reverso, grazie, e grazie anche da parte dei nostri cervelli. Buona giornata. Buona giornata, grazie a voi. Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls and circle forward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Ma non di solo pane, semi, omega 3 ha bisogno il nostro cervello, ma anche di stimoli. I neuroni adorano rimanere giovani e attivi, muoversi, incontrarsi. Allora, non teniamoli con le mani in mano. Buongiorno, dottoressa Sara Bottiroli. Sì, buongiorno Nicoletta. Esatto, come diceva lei, il cervello umano gode di plasticità e quindi è in continua riorganizzazione a seconda delle stimolazioni esterne che riceve. Quindi questi neuroni facciamoli muovere e vivere bene. Esatto, è importante infatti quindi fornire, il fatto di fornire sempre delle stimolazioni nuove che quindi ci permettano appunto di rendere il nostro cervello sempre più efficiente. Pensiamo quindi al cervello come se fosse un muscolo. Come fisicamente è importante fare tanto esercizio per mantenersi in forma, questo è vero anche a livello del cervello, quindi stimoliamo sempre più il nostro cervello per farlo funzionare bene. Quindi, dottoressa Bottiroli, da quello che lei mi dice, capisco che il nostro cervello è onnivoro, molto curioso, ha bisogno di stimoli e quindi soffre la monotonia. Esatto, infatti sempre rifacendoci all'esempio dell'esercizio fisico e di quanto sia importante stimolare tutti i muscoli del corpo, quindi non fare sempre uno stesso esercizio che ci sviluppa un muscolo ma lascia indietro gli altri, è importante fare lo stesso per il cervello, quindi fornire delle stimolazioni che siano sempre differenti. Dottoressa Bottiroli, molte persone dicono: io per tenermi allenato, non lo so, faccio il cruciverba oppure faccio i quiz, ecco, però... Esatto. Il mio consiglio è quello di non soffermarsi solo su un tipo di attività, ma fornirne diverse. Il cruciverba e i quiz sono utili proprio perché stimolano la logica, la nostra capacità di fare inferenze o di rievocare informazioni che abbiamo memorizzato. Però questo non basta, quindi accanto ai cruciverba forniamo anche altre stimolazioni, come per esempio il fatto di cercare di cambiare sempre le nostre abitudini, quindi per esempio in casa dove si mettono le chiavi, cercare di cambiare posizione in modo tale che ci stimoliamo a ricordare cosa abbiamo fatto, cambiare le strade che percorriamo generalmente per esempio per recarci al lavoro, quindi fare strade nuove proprio per stimolarci mentalmente, piuttosto che cercare di fare anche ci sono anche dei giochi che servono per stimolare il cervello, fornire insomma tante attività differenti che aiutino a stimolare tutte le abilità cerebrali. Insomma, non dobbiamo fargli mancare nulla. Esatto. Ma ogni tanto, dottoressa Bottiroli, il nostro cervello sembra perdere colpi, non risponde come vorremmo, facciamo fatica a concentrarci, a capire, a ricordare, per carità, piccole defiance assolutamente comuni, ma a volte un po' fastidiose, e direi a volte ci mettono anche in imbarazzo, per un classico è quando dimentichiamo un appuntamento, quando non lo segniamo magari in agenda o ci dimentichiamo di andare a vedere l'agenda, perché a me capita anche questo, segno e poi non guardo, oppure di non ricordarci il nome della persona con cui stiamo parlando. Ah, ecco, ti ho trovata, e uno dice sì, la conosco, ma questa come si chiama? Allora abbozzi, dottoressa Bottiroli, lì uno dice ma cervellino mio, che cosa stavi pensando? Che si fa in questi casi? Oltre a sorridere, casi, diciamo che ricollegandoci al discorso di stimolare il cervello, per esempio a me vengono in mente dei semplici esercizi che vi potrei proporre da fare nel quotidiano proprio per mantenerci in allenamento ed evitare tutte queste cose a livello di memoria, ecco, parliamo di memoria. Bene, perché voi parlate di ci sono tanti tipi di memoria, vero, esatto, dottoressa Bottiroli? Quindi, se ci ricolleghiamo al discorso di stimolazioni diverse, pensiamo alla memoria a lungo termine che si distingue in memoria verbale e memoria visospaziale. Quindi, per esempio, per quanto riguarda la memoria verbale, ci si potrebbe sforzare, quando si legge un articolo di un giornale, a farlo pensando poi, per esempio, di discuterne con qualcuno, quindi di dovergli riportare quanto abbiamo letto. Quindi, un attimo, perché io sulla memoria devo stare molto attenta. Cosa faccio? Noi leggiamo... Poi noi quello che ci piace di articolo. Più. Poi cerchiamo, molto spesso anche a me capita, leggo qualcosa, poi due secondi dopo mi dimentico quello che ho letto. Invece facciamolo nell'ottica di spiegarlo a qualcun altro, quindi cerchiamo di individuare, diciamo, delle parole chiave in quello che stiamo leggendo, quindi focalizziamoci su questi aspetti, e poi magari anche all'interno della famiglia cerchiamo, partendo da queste parole chiave, di ripercorrere quanto abbiamo letto, anche magari, diciamo, iniziando un dibattito con i nostri familiari, quindi ci manteniamo attivi a livello di discussione proprio nel parlarne con gli altri. Però, e al contempo siamo in grado, ci esercitiamo a livello verbale a essere in grado, diciamo, di cogliere gli elementi chiave di un testo. Io mi eserciterò con Laura Vanossi, che mi batte sulla memoria. Volevo chiederle, prima di dare la linea alla viabilità, al traffico, quando facciamo questo esercizio noi possiamo sottolineare le cose che vogliamo ricordare o no? Si fa... Certo, sì, diciamo che soprattutto per chi è all'inizio dell'utilizzo di queste, diciamo, tecniche, inizialmente si lavora proprio sul testo, quindi si può sottolineare quanto... Questa è una buona indicazione, la teniamo come stampellina e poi invece leggiamo e memorizziamo, ma non solo questo faremo con l'aiuto della dottoressa Bottiroli, che ricordo è ricercatrice del Dipartimento di Psicologia di Pavia, dell'Università di Pavia, e autrice con la dottoressa Elena Cavallini di 101 modi per allenare la memoria. Essere e benessere. Chi sono io? Come mi chiamo? Cosa state sentendo? Stiamo allenando la nostra memoria con la dottoressa Sara Bottiroli. Dottoressa Bottiroli, il primo esercizio è quello di cercare di, quando leggiamo, di provare poi a così ripetere un po' i concetti più importanti dell'articolo che abbiamo letto, della pagina di romanzo, eccetera. Per prime, chi è un po' zoppetto può aiutarsi con la stampellina della sottolineatura. Ci sono altri esercizi proprio che possiamo fare senza perdere tempo, mentre svolgiamo le nostre attività quotidiane? Esatto, un altro esercizio che possiamo fare nel quotidiano per tenere in allenamento la nostra memoria può essere quello, per esempio, quando dobbiamo andare da qualche parte, qui parlo di memoria visuospaziale, invece, quindi quel tipo di memoria che riguarda più le informazioni, diciamo, del visivo, quindi non le parole, ma ciò che vediamo. Sì. E il fatto di cercare, accanto all'utilizzo del navigatore che utilizziamo tutti, qualche volta di sforzarci di tornare alle vecchie mappe, quindi proprio di visualizzare mentalmente i percorsi, e questo che dobbiamo fare per andare da qualche parte, in modo tale proprio che ci manteniamo in allenamento questa nostra abilità di rappresentare mentalmente le strade. Questa agenda si usa o non si usa? Adesso noi siamo prossimi, tra poco compreremo l'agenda del prossimo anno, e quindi allora c'è un modo di utilizzare l'agenda che aiuti anche la nostra memoria? Allora, l'agenda è una cosa anche questa che purtroppo rischia in qualche modo di atrofizzare, diciamo, tra le virgolette, la nostra capacità di mantenere attive le informazioni nella nostra mente. Mm. Sappiamo che c'è l'agenda e quindi non ci sforziamo neanche minimamente di tenerle noi a mente. Diciamo che il consiglio che darei io è quello di tentare di associare ciò che dobbiamo fare a un momento particolare della giornata, per cui adesso io mi rifaccio anche al semplice prendere le medicine la mattina. Molto spesso ci si dimentica di prenderle proprio perché non è un'informazione che difficilmente viene da sé a una persona. Certo. Diciamo, il consiglio che do io è quello di associare ciò che dobbiamo fare a qualcosa di particolare che sappiamo che avviene nella giornata. Dobbiamo prendere le pastiglie alla mattina, le associamo per esempio al telegiornale che c'è alla mattina, l'edizione delle 8, e quindi sappiamo che quando parte il telegiornale sappiamo che dobbiamo appunto prendere la medicina. Cerchiamo di sforzarci quantomeno a tenere a mente le informazioni, poi andiamo a controllarle sull'agenda, però facciamo lo sforzo, certo, di tenerle nuovamente e verifichiamo quanto siamo in grado di tenere a mente. Dottoressa Bottiroli, grazie per essere stata grazie con noi. Grazie di avermi contattata. Altri consigli li potete trovare nei 101 modi per allenare la memoria della dottoressa Bottiroli e della dottoressa Cavallini, Newton Compton editore. Allora, questo cervello lo abbiamo nutrito, lo abbiamo stimolato, ma il cervello, cari amici, sa pensare a sé. Ne parliamo col professor Massimo Di Gianantonio, psichiatra, ordinario di psichiatria all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. È vero che il nostro cervello sa pensare a sé, non ha tanto bisogno di noi, ma insomma. Diciamo che il cervello è un organo così straordinario e così fantastico che prevede due attività molto differenziate le une dalle altre. Le prime sono tutte le cose che il cervello costruisce, pensa e realizza per quanto riguarda la vita fuori di noi, la vita con gli altri, la vita nel lavoro, la vita negli impegni quotidiani, tutto ciò che noi dobbiamo fare, diciamo la sfera cognitiva, la sfera cosciente. Dall'altra, il cervello è come un gigantesco organo che si richiude su se stesso, che stacca i contatti con l'ambiente e che comincia a rielaborare profondamente tutte le cose che sono avvenute nella giornata, a programmare tutte le cose che devono avvenire il giorno successivo, ad eliminare i ricordi più dolorosi, a costruire le situazioni più favorevoli e più costruttive, e dunque due immagini, un cervello proiettato fuori di sé ed un cervello introiettato dentro di sé, che svolge a seconda delle fasi del giorno e della notte delle funzioni totalmente differenti ma essenziali entrambe per il perfetto funzionamento di questa, che non dimentichiamolo mai, è la macchina più perfetta vivente che esiste sulla crosta terrestre in questo momento. Professore, mi scusi, ma si riposa qualche volta? Dunque, il cervello si riposa molto profondamente e è bene che gli ascoltatori lo sappiano, il cervello fa durante la notte delle operazioni di grande pulizia, di grande manutenzione, di grande riparazione delle fatiche, dei guai, degli impegni che ha dovuto realizzare durante il giorno. Pensate per esempio alla questione della memoria. Il cervello è talmente perfetto che teoricamente dovrebbe conservare, cioè memorizzare, tutti gli eventi che sono accaduti durante la giornata. Ma di notte si apre un gigantesco laboratorio, una grande officina, dove il cervello distrugge, elimina, allontana tutte le cose che sono ritenute non utili, non fondamentali, non importanti, è come se facesse una grande operazione di pulizia, di messa in ordine, sì, di messa in relazione positiva per essere pronti alla giornata nuova che comincia. E non si sbaglia mai, professore, questo cervello nel fare pulizia, nel fare ordine? Si sbaglia, come tutti gli esseri umani, in un numero elevato di volte, ma quando si sbaglia il cervello in quest'opera di sistematizzazione di tutti gli eventi della giornata, in realtà tende a sbagliarsi per degli argomenti sui quali noi siamo particolarmente sensibili, direi particolarmente vulnerabili. E quindi quando il cervello sbaglia, non sbaglia mai per caso, ma sbaglia per delle ragioni estremamente importanti legate alla nostra identità, legata ai traumi del passato. Professore, prima di salutarci, tante ricerche suggeriscono la meditazione, perché anche numerosi studi dimostrano che la meditazione in generale fa bene alla salute, ma fa bene soprattutto al cervello. Noi siamo abituati a pensare alla meditazione come qualcosa di lontano, proprio per addetti ai lavori, qualcosa di irraggiungibile. Invece lei più volte è intervenuto nella nostra trasmissione, ha proposto la meditazione quasi come una pratica quotidiana, accessibile a tutti. Ci vuole dare magari qualche indicazione? Quello che lei descrive è un argomento di eccezionale importanza nell'equilibrio, nella stabilità e direi anche nella felicità di ciascuno di noi. Cos'è la meditazione? La meditazione è il cervello che si concentra e si focalizza su se stesso. È un cervello che tenta di abbandonare i problemi del quotidiano, tenta di allontanarsi dalle cose che facciamo tutti i giorni e che sono molto ripetitive e che sono quasi sempre uguali a loro stesse, ma si concentra su ciò che sono gli elementi essenziali della nostra identità e essenziali della nostra motivazione. Quando si medita, si dice che si arriva ad uno stato di coscienza profondo. Il cervello riflette molto profondamente su se stesso, allontana le distrazioni che sono rappresentate dall'attività quotidiana, dalle cose normali, dalle cose banali, e si concentra su ciò che diventa e che è essenziale per il singolo soggetto. Quindi, professore, noi possiamo concludere questa trasmissione con la famosa frase: meditate, gente, meditate. Grazie. Meditate e sarete meglio. E per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.